Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Primo giorno, verso nona, dove Guglielmo ha un dialogo dottissimo con Severino Erborista. Ripercorremmo la navata centrale e uscimmo. Ero ancora turbato dal colloquio con Ubertino. «È un uomo strano», dissi. «Eo è stato per molti aspetti un grande uomo, ma proprio per questo è strano. Sono solo gli uomini piccoli che sembrano normali. Ubertino avrebbe potuto diventare uno degli eretici che ha contribuito a fare bruciare, o un cardinale di Santa Romana Chiesa. È andato vicinissimo ad entrambe le perversioni. Quando parlo con Ubertino ho l'impressione che l'inferno sia il paradiso guardato dall'altra parte». Non capii cosa volesse dire. «Da che parte?» domandai. «Eh già», ammise Guglielmo. «Si tratta di sapere se ci sono delle parti e se c'è un tutto. Ma non darmi ascolto e non guardare più quel portale», disse colpendomi lievemente sulla nuca mentre mi rigiravo attratto dalle sculture che avevo visto all'entrata. «Per quest'oggi ti hanno spaventato abbastanza, tutti». Mentre mi rivoltavo verso l'uscita, vidi davanti a me un altro monaco. Poteva avere la stessa età di Guglielmo. Ci sorrise e ci salutò urbanamente. Disse che era Severino da Sant'Emmerano ed era il padre erborista che aveva cura dei balnea, dell'ospedale e degli orti e che si metteva al nostro servizio se avessimo voluto orientarci meglio nel recinto dell'abbazia. Guglielmo lo ringraziò e disse che aveva già notato, entrando, il bellissimo orto, che gli pareva contenere non solo erbe commestibili, ma anche piante medicinali, per quanto si poteva vedere attraverso la neve. «Estate o di primavera, con la varietà delle sue erbe e ciascuna adornata dei suoi fiori, questo orto canta meglio le lodi del Creatore», disse Severino a mo' di scusa. «Avete erbe diverse e buone per climi diversi, come mai?» «Per un lato lo devo alla misericordia del Signore che ha posto il nostro altopiano a cavallo di una catena che vede a meridione il mare e ne riceve i venti caldi e a settentrione la montagna più alta di cui riceve i balsami silvestri. E per un lato lo devo all'abito dell'arte che ho indegnamente acquisito per volontà dei miei maestri. Certe piante crescono anche in clima avverso se ne curi il terreno circostante e il nutrimento e la crescita». «Ma avete anche piante buone solo per mangiare?» domandai. «Mio giovane puledro affamato, non ci sono piante buone per il cibo che non siano anche per la cura, purché prese in giusta misura. Solo l'eccesso le rende causa di malattia. Prendi le cipolle. Calde e umide, poche potenziano il coito, naturalmente per coloro che non hanno pronunciato i nostri voti. Troppe ti dan pesantezza di capo e vanno combattute con latte e aceto. Buona ragione», aggiunse con malizia, «perché un giovane monaco ne mangi sempre con parsimonia. Mangia invece aglio, caldo e secco, è buono contro i veleni, anche se alcuni dicono che, a mangiarne troppo di sera, poi dà cattivi sogni. Molto meno però di certe altre erbe che provocano anche cattive visioni». «Quali?» domandai. Il nostro Rovizio vuole sapere troppo. Queste sono cose che deve sapere solo l'erborista. Se no, qualsiasi sconsiderato potrebbe andare in giro a somministrar visioni, ovvero a mentire con le erbe». «Ma basta un poco d'urtica», disse allora Guglielmo, «o la roibra, o l'olieribus, e si è protetti contro le visioni. Spero che voi abbiate di queste buone erbe». Severino guardò il maestro di Sottecchi. «Ti interessi di erboristeria?» «Molto poco», disse modestamente Guglielmo. «Una volta ebbi tra le mani il Theatrum Sanitatis di Abu Hassim de Baldach. Abu Hassan al-Mukhtar ibn Botlan. O Elukasim el-Imitar, come vuoi tu. Mi chiedo se se ne potrà trovare una copia qui. E delle più belle, con molte immagini di preziosa fattura. Sia lode al cielo. E il De Virtutibus Herbarum del Platearius? Anche quello. E il De Plantis di Aristotele. Sarò lieto di avere con te qualche onesta conversazione sulle erbe. Io più di te, disse Guglielmo. Ma non violeremo la regola del silenzio, che mi pare viga nel vostro ordine. La regola prevedeva la lectio divina, ma non lo studio. Eppure sai quanto il nostro ordine abbia sviluppato la ricerca sulle cose divine e sulle cose umane. Ancora, la regola prevede il dormitorio comune, ma talora è giusto come da noi che i monaci abbiano possibilità di riflessione anche durante la notte, e così ciascuno di essi ha la propria cella. La regola è molto severa riguardo al silenzio, e anche da noi, non solo il monaco che fa opere manuali, ma anche colui che scrive o che legge, non deve conversare coi suoi fratelli. Ma l'abbazia è anzitutto una comunità di studiosi, e spesso è utile che i monaci si scambino i tesori di dottrina che accumulano. Ogni conversazione che riguardi i nostri studi è ritenuta legittima e profittevole, purché non si svolga in refettorio o durante le ore degli uffici sacri. Hai avuto occasione di parlare molto con Adelmo da Otranto? Chiese bruscamente Guglielmo. Severino non parve sorpreso. Vedo che l'abate ti ha già parlato, disse. No, con lui non mi intrattenevo sovente. Passava il tempo a miniare. L'ho udito talora discutere con altri monaci. Venanzio da Salvemec o Jorge da Burgos sulla natura del suo lavoro. E poi io non passo la giornata nello scriptorium, ma nel mio laboratorio. E accennò all'edificio dell'ospedale. Capisco, disse Guglielmo. Dunque non sai se Adelmo avesse avuto visioni. Visioni? Come quelle che procurano le tue erbe, per esempio. Severino si irrigidì. Ho detto che custodisco con molta cura le erbe pericolose. Non dico questo, si affrettò a precisare Guglielmo. Parlavo di visioni in genere. Non capisco, insisté Severino. Pensavo che un monaco che si aggira di notte per l'edificio dove, per ammissione dell'abate, possono accadere cose tremende a chi vi entri in ore proibite. Bene, dicevo, pensavo che potesse avere avuto visioni diaboliche che l'avessero spinto nel precipizio. Ho detto che non frequento lo scriptorium, salvo quando mi serve qualche libro, ma di solito ho i miei erbari che conservo nell'ospedale. Ti ho detto, Adelmo era molto familiare di Jorge, di Venanzio e naturalmente di Berengario. Avvertì anch'io una lieve esitazione nella voce di Severino, né sfuggì al mio maestro. Berengario? E perché naturalmente? Berengario da Arundel, l'aiuto bibliotecario. Erano coetanei, sono stati novizi insieme. Era normale che avessero cose di cui parlare, questo volevo dire. Questo dunque volevi dire, commentò Guglielmo. E mi stupì che non insistesse su quel punto. Infatti cambiò subito discorso. Ma forse è ora che entriamo nell'edificio. Ci fai da guida? Con piacere, disse Severino con un sollievo sin troppo evidente. Ci fece costeggiare l'orto e ci portò di fronte alla facciata occidentale dell'edificio. Guglielmo chiese se avremmo trovato qualcuno nello scriptorium, anche se era domenica. Severino sorrise e disse che il lavoro per il monaco benedettino è preghiera. La domenica gli uffici duravano più a lungo, ma i monaci addetti ai libri passavano ugualmente alcune ore lassù, di solito impiegate in fruttiferi scambi di osservazioni dotte, consigli, riflessioni sulle sacre scritture. Primo giorno, dopo nona. Dove si visita lo scriptorium e si conoscono molti studiosi, copisti e rubricatori, nonché un vegliardo cieco che attende l'anticristo. Mentre salivamo, vidi che il mio maestro osservava le finestre che davano luce alla scala. Stavo probabilmente diventando abile come lui, perché mi avvidi subito che la loro disposizione difficilmente avrebbe consentito a qualcuno di raggiungerle. D'altra parte, neppure le finestre che si aprivano nel refettorio, le uniche che dal primo piano dessero sullo strapiombo, parevano facilmente raggiungibili, dato che sotto di esse non vi erano mobili di sorta. Arrivati al sommo della scala, entrammo per il torrione orientale allo scriptorium e quivi non potei trattenere un grido di ammirazione. L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa, anche se si era in un pomeriggio d'inverno. Le vetrate non erano colorate come quelle delle chiese e i piombi di riunione fissavano riquadri di vetro incolore perché la luce entrasse nel modo più puro possibile. Quale apparve ai miei occhi in quell'ora meridiana, esso mi sembrò un gioioso opificio di sapienza. Severino ci spiegò che i monaci che lavoravano allo scriptorium erano dispensati dagli uffici di terza, sesta e nona per non dover interrompere il loro lavoro nelle ore di luce e arrestavano le loro attività solo al tramonto per vespro. I posti più luminosi erano riservati agli antiquari, ai miniatori più esperti, ai rubricatori e ai copisti. Ogni tavolo aveva tutto quanto servisse per miniare e copiare: corni da inchiostro, penne fini che alcuni monaci stavano affinando con un coltello sottile, pietra pomice per rendere liscia la pergamena, regoli per tracciare le linee su cui si sarebbe distesa la scrittura. Alcuni avevano inchiostri d'oro e di altri colori, altri invece stavano solo leggendo libri e trascrivevano appunti su loro privati quaderni o tavolette. Non ebbi peraltro il tempo di osservare il loro lavoro, perché ci venne incontro il bibliotecario, che già sapevamo essere Malachia da Hildesheim. Il volto di costui cercava di atteggiarsi a un'espressione di benvenuto, ma non potei trattenermi dal fremere di fronte alla sua singolare fisionomia. Il suo viso era pallido, e benché egli dovesse essere appena alla metà del suo cammino terreno, una rete sottile di rughe lo faceva simile non tanto a quello di un vecchio, ma, come mi parve al primo sguardo, e Dio mi perdoni, a quello di una vecchia, per un non so che di muliebre nei suoi occhi profondi e melanconici. La sua bocca era quasi incapace di atteggiarsi al sorriso e nell'insieme quell'uomo dava l'impressione di affrontare la pena di esistere per un qualche sgradito dovere. Ci salutò peraltro con cortesia e ci presentò a molti dei monaci che stavano in quel momento al lavoro. Di ciascuno ci disse anche il lavoro che stava compiendo e di tutti ammirai la profonda devozione al sapere e allo studio della parola divina. Conobbi così Venanzio da Salvemec, traduttore dal greco e dall'arabo, devoto di quell'Aristotele che certamente fu il più saggio di tutti gli uomini, Bencio da Uppsala, un giovane monaco scandinavo che si occupava di retorica, Berengario da Arundel, l'aiuto del bibliotecario, Aimaro da Alessandria, che stava ricopiando opere che solo per pochi mesi sarebbero state in prestito alla biblioteca, e poi un gruppo di miniatori di vari paesi, Patrizio da Clonmacnois, Rabano da Toledo, Magnus da Iona, Valdo da Hereford. Malachia gli spiegò quello che già l'abate aveva detto, che il monaco chiedeva al bibliotecario l'opera da consultare e questi sarebbe andato a reperirla nella biblioteca superiore se la richiesta fosse stata giusta e pia. Guglielmo domandò come poteva conoscere il nome dei libri custoditi negli armari a soprastanti e Malachia gli mostrò, fissato da una catenella d'oro al suo tavolo, un voluminoso codice coperto di elenchi fittissimi. Guglielmo infilò le mani nel saio, dove esso si apriva sul petto a formare una sacca, e ne trasse un oggetto che già gli avevo visto tra le mani e sul viso nel corso del viaggio. Era una forcella costruita così da poter stare sul naso di un uomo, e meglio ancora sul suo, così prominente e aquilino. Come un cavaliere sta in groppa al suo cavallo o come un uccello su un trespolo. E ai due lati della forcella, in modo da corrispondere agli occhi, si espandevano due cerchi ovali di metallo che rinserravano due mandorle di vetro spesse come fondi di bicchiere. Con quelli sugli occhi Guglielmo, di preferenza, leggeva e diceva di vedere meglio di quanto natura lo avesse dotato o di quanto l'età sua avanzata, specie quando declinava la luce del giorno, gli consentisse. Né gli servivano per vedere da lontano, che anzi aveva l'occhio acutissimo, ma per vedere da vicino. Con quelli egli poteva leggere manoscritti vergati in lettere sottilissime. Gli altri monaci guardarono Guglielmo con molta curiosità, ma non ardirono porgli domande. E io mi avvidi che, anche in un luogo così gelosamente e orgogliosamente dedicato alla lettura e alla scrittura, quel mirabile strumento non era ancora penetrato. E mi sentii fiero di essere al seguito di un uomo che aveva qualcosa con cui stupire altri uomini famosi nel mondo per la loro saggezza. Con quegli oggetti sugli occhi, Guglielmo si chinò sugli elenchi stilati nel codice. Guardai anch'io e scoprimmo titoli di libri mai uditi e altri di celeberrim che la biblioteca possedeva. Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.